Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Palla dentro per Hamsik, si sblocca il capitano, subito fortissimo parte Hamsik, 114 gol per lui con la maglia del Napoli, a un passo dalla storia, a un passo da Maradona. You said you follow me anywhere, do your tell me you won't be there. Strada è ancora lunga, importante era partire con piede giusto e 7 vittorie in prime 7 partite è una cosa incredibile, ora speriamo continuare così. Parte Brozovic ed è 2-0, ancora Marcelo Brozovic, 22esimo minuto, micidiale. Il cross ancora per Immobile, messo giù, calcio di rigore per la Lazio. Il pomeriggio per il Sassuolo si fa nerissimo. Immobile! Allora, io voglio partire dalla classifica. Saluto Carlo Genta, a tutti voi. 800 24 0024 per prenotarvi e intervenire in diretta fino alle 19. 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Dicevo, voglio partire dalla classifica perché dalla dimensione di che cosa ci attende da qui fino a questa sera ore 22.45, perché il meglio deve ancora venire. Napoli 21 punti, Inter 19, Juventus 18, Lazio 16, Roma Milan 12 punti, poi via via tutte le altre. Il meglio deve ancora venire, dicevo, perché tra 50 minuti a San Siro va in scena Milan-Roma, poi alle 20.45 Atalanta-Juventus. Oggi Sarri ha detto che la Juve resta un gradino sopra tutte le altre, Napoli compreso, io non lo so. Poi analizzeremo anche questa cosa. Di Milan-Roma si è detto e scritto tutto in questi giorni, le vittorie, faticosa quella dell'Inter a Benevento e sul velluto, soprattutto nel secondo tempo, quella della Lazio contro il Sassuolo, dicono che questa sera chi si ferma è perduto. Saluto subito Nando Orsi, che ringrazio da Benevento, dove ha appena commentato la partita dell'Inter. Ciao Nando. Ora, Nando. Buon pomeriggio a voi ragazzi. Allora dai, io voglio sapere subito se i tre punti giustificano tutto quello che ha fatto vedere oggi l'Inter. Nando. No, è in linea con quello che ha fatto in queste 7 partite, giocando non benissimo ma portando a casa il risultato pieno. E comunque non è un caso, perché su 7 partite, se le vinci e una la pareggi, è un modo di giocare, è un modo di essere utilitaristici in questa situazione. L'Inter lo è, ha rischiato di pareggiare, però alla fine porta a casa il risultato, quindi non so se può essere il terzo incomodo, perché Juve e Napoli, secondo me, soprattutto il Napoli che gioca bene, però in questo momento adesso comincia per l'Inter un pittico di partite fondamentale, sì. Il Milan, insomma, partite difficili, quindi ci siamo soprattutto al Milan e al Napoli. Esatto, dobbiamo stare proprio in questo senso. Sì, comunque devo dire che non era facile nemmeno gestire mentalmente il doppio vantaggio arrivato dopo un pugno di minuti. Sappiamo bene come Nando, il limite dell'Inter, esatto, confermato anche esatto, oggi, sia nel difetto di creatività che ha questa squadra. No, però più che sia altro, solido, secondo me ha perso un po' pensava che la partita fosse finita, e quindi quando tu pensi che la partita è finita, poi c'è sempre una squadra che tra l'altro ha giocato anche discretamente, perché non ha mai perso gli equilibri, e quindi ha passato un po' di concentrazione. Il Benevento ha fatto gol, il secondo tempo ha preso un palo. Sì, ha preso un palo con D'Alessandro, completiamo l'informazione, adesso recuperiamo anche in maniera ascoltabile il collegamento da Benevento con Nando Orsi. Benevento che ha colpito un palo con D'Alessandro e soprattutto è stato in partita fino al minuto numero 95 su un campo contro un avversario che contro le altre grandi, Carlo, era sempre stato ampiamente fuori partita con largo anticipo, vabbè, ma anche, senza stare a citare i sei gol del Napoli. Ripeto, anche oggi l'Inter è partita pronti via 2-0, quindi è normale anche che non sia facile andare a per cosa vai a 100 all'ora, sei già in vantaggio di due gol. Poi è chiaro che ha subito il gol, è chiaro che ha rischiato qualche cosa di troppo, però alla fine che cosa puoi chiedere? Di vincere 8-1? Anche no. No, però aveva chiesto Spalletti un cambio di velocità, aveva chiesto Spalletti di vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che aveva mostrato fin qui la squadra. Evidentemente non ha avuto risposte, e ripeto, tra quelle che sono appena dietro al duo Napoli e Juventus, colpisce semmai la bellezza incredibile della Lazio, che ha fatto un secondo tempo strepitoso col Sassuolo. Continua ad essere una squadra ampiamente sottovalutata, Giovanni. Oggi è andato 1-0 col Sassuolo, non ha fatto un plissé, ha vinto 6-1, e continuo a pensare che si parla delle due di testa che faranno campionato a sé, delle due milanesi, della Roma. Io ci metterei anche l'altra romana. Questo drappello è lì ad inseguire il terzo e quarto posto. Allora c'è Spalletti, microfoni di Premium Sport. Riusciamo a prendere le sue parole? Dire bene per acquisire un po' di tranquillità sotto l'aspetto poi del carattere, del trovare anche più bellezze di giocate, e oggi a lunghi tratti lo abbiamo fatto. In delle situazioni dobbiamo ancora metterci mano e migliorare. Intanto 19 punti su 21 non si vedevano all'Inter dai tempi di Cooper 2002-2003, però so che lei è un perfezionista, volevo capire allora come mai dopo il 2-0 c'è stato questo quarto d'ora di calo di concentrazione. Perché noi veniamo da questi campionati qui, non si può guarire subito in un giorno. Ci sono dei momenti dove non riusciamo a mantenere il livello, a dare seguito a quella che è la tigna, il carattere. Ogni tanto ricadiamo in delle piccole banalità. Però oggi c'è da fare molti complimenti per essere entrati in campo con un impatto importante. Hanno obbligato la partita a prendere una direzione, hanno comandato il gioco, hanno creato molto. E poi sì, magari se non prendiamo il 2-1 anche meglio su quella palla persa, però poi c'è da farsi una mentalità, per cui bisogna vincere, bisogna soffrire in alcuni momenti e guadagnare di volta in volta. Questo Spalletti, microfoni di Premium Sport. Abbiamo recuperato Nando Orsi, del quale approfittiamo prima di andare in traffico. Spalletti mi pare più soddisfatto che nelle scorse settimane. Beh sì, insomma, vincere, dopo che vinci sei partite non la pareggi, soddisfatto lo sei, ovvio che devono migliorare su certe cose, ha detto bene. Hanno abbassato un po' la concentrazione pensando che potesse diventare goleata anche questa, così come ha fatto la Roma, come ha fatto il Napoli. Invece Benevento ha trovato una squadra molto, molto coperta, ha cambiato anche disposizione tattica, e sulle ripartenze, su certi errori di passaggio l'Inter deve migliorare, soprattutto deve riuscire a velocizzare un po' la giocata sul compagno, perché molte volte sono troppo prevedibili. Ecco, Spalletti deve lavorare anche su questo. Ma basta questa Inter per il Napoli e per il Milan? Cioè, o meno, Milan e Napoli sono le due partite che si troverà dopo la sosta. Ma sai, il Milan è un derby, quindi possibile. Non lo so se può bastare. Per questo Napoli c'è da lavorare molto, perché il Napoli è molto veloce nel breve, quindi l'Inter sono giocatori un po' compassati, quindi Spalletti deve trovare certe contromisure, soprattutto giocare un po' più stretti, perché anche il Benevento quest'anno ha trovato i due centrocampisti spesso larghi, anche i difensori che giocavano uno contro uno, quindi deve trovare degli accorgimenti per far sì che il Napoli non possa fare il suo gioco al meglio. Ecco, quindi secondo me ancora no, ancora un po' distante. Dicendo che sono pochi che bastano per questo Napoli, ma è tema di cui parleremo da qui alle 19. Grazie Nando. Ciao Nando. Grazie a voi ragazzi. Ciao ragazzi. Mi piace sapere cosa ne pensate anche voi da casa. Sarri ha detto, dopo una prestazione meravigliosa del Napoli, e che il fatto che l'avversario fosse il Cagliari secondo me conta poco, ha detto: dite tutti che siamo sul livello della Juventus, la verità è che la Juve rimane sempre davanti a tutti. Voglio sapere che cosa ne pensate. 800 24 00 24. Dopo il traffico andiamo a San Siro, arriva anche più Luigi Pardo e abbiamo tantissime cose di cui parlare. Ci sono le formazioni ufficiali di Milan-Roma. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Convocati. Allora, c'è chi scrive: Montella è già stato scaricato dalla squadra e dalla dirigenza, due fisso per Milan-Roma, poi arriva Ancelotti e ci riporta in Champions. C'è anche questo tra i temi di questa domenica. 800 24 00 24. Allora andiamo a San Siro al nostro Dario Ricci. Dario, eccoci ragazzi, sono già arrivate le formazioni che sono quelle confermate di fatto, con Donnarumma in porta per il Milan ovviamente, poi difesa a 3, Romagnoli, Bonucci, Musacchio, a centrocampo, centrocampo a 5 con Borini, esterno destro, poi Çalhanoğlu, Biglia, Kessié e Rodriguez, in attacco la coppia Kalinic-André Silva, il 4-3-3 previsto anche per Di Francesco con Alisson in porta, Fazio e Manolas al centro della difesa completata da Kolarov e Perez, centrocampo con De Rossi in angolo, Strootman, i tre davanti sono Florenzi e El Shaarawy a supporto di Dzeko. Commentiamo subito le formazioni con Roberto Condio, l'inviato della Stampa. Roberto, questo Borini esterno destro era previsto? Sì, però a leggerlo a me sorprende comunque. Ruolo senza padrone. Esatto, anche perché fa un po' completa la 13ª formazione diversa del Milan su 13 partite. E poi mi salta all'occhio una cosa che non credo sia così casuale, pensando alla reprimenda dura di Fassone domenica negli spogliatoi dopo la Samp. Cioè il Milan oggi, cioè Montella oggi schiera 9 titolari nuovi, record stagionale. Era arrivato anche soltanto a 5 a Genova, se non altro. Quindi insomma il fatto di schierare tutti i soldi spesi nel mercato magari è stato quasi doveroso a questo punto. Visto quindi che restano Donnarumma e Romagnoli prima. In pratica della squadra. Donnarumma e Romagnoli sono gli unici reduci dall'anno scorso. Sì, però bisogna vedere se poi dopo questo in campo si tradurrà in qualcosa di meglio di quello, diciamo non molto essere buoni, che si è visto fino adesso, così come forse anche dall'altra parte dei Navigli sembra che il che, perdonatemi, non sarebbe però una garanzia credo per i tifosi del Milan. Cioè se c'è un allenatore che perde all'Olimpico con la Lazio e rivoluziona il modulo, e perde con la Samp, manda via il preparatore e di fatto poi butta dentro tutti i nuovi acquisti magari rispondendo a una logica sotto pressione, io non so che riflessione fate voi due. Mossa molto populista quella di Montella, mossa molto insomma gettonata dall'opinione pubblica milanista, anche una mossa comprensibile per sintomo di un allenatore che comunque oggi non può perdere la partita. Dario, Roberto. Ecco Roberto. No, anche perché oggi francamente guardando anche la classifica come avevate detto voi prima, insomma francamente oggi chi perde, soprattutto il Milan, perché la Roma non dimentichiamoci che deve sempre recuperare la partita di Marassi, però se il Milan perde oggi avendo poi dopo il derby alla ripresa del campionato, insomma francamente comincia a farsi dura, anche perché al di là del distacco farebbero 3 sconfitte in 7 partite, farebbero comunque, sì. La partita è ancora di là da essere giocata, vediamo, poi dopo ne parliamo. Io penso che soprattutto che i tifosi del Milan vogliono vedere una risposta un po' più convincente sul campo, a partire dal loro nuovo capitano che francamente fino adesso mi sembra che abbia fatto molto più il leader sui social che in campo con le buone azioni nel suo mestiere, che è quello di leader della difesa della squadra. Stiamo parlando di Bonucci, aspetta che ci ha raggiunto Dario, ci ha raggiunto anche Luigi Pardo, che saluto, ciao Piero. Ciao ragazzi, ciao. Voglio chiederti veloce, viste le partite del pomeriggio e guardandola con l'ottica di chi scende in campo questa sera, a chi devono guardare secondo te più con terrore Milan e Roma tra Lazio e Inter? Ma a tutte, l'Inter secondo me ha qualcosa in più che è less is more, cioè non ha le coppe e secondo me questo può essere un vantaggio. Sono due squadre tutte e due buone e abbastanza simili, nel senso che il rischio per tutte e due è quello di essere un po' corte a livello di rosa. Però l'Inter certamente non ha l'Europa, mentre la Lazio ha una competizione europea che alla lunga può essere un po' usurante, anche se insomma per ora i risultati sono eccellenti, per vincere 6-1 dopo aver giocato in Europa League vuol dire aver fatto anche bene turnover, quindi ti dico l'Inter, ma per quel motivo lì, perché poi secondo me dal punto di vista tecnico siamo sulla stessa linea. Dario, dai. No, volevo chiedere a Roberto, ma siamo sicuri che la posizione di Di Francesco sia di molto più stabile? Perché la Roma fino adesso, cioè, le tensioni dello spogliatoio ci sono state e ci stanno. I risultati sono leggermente meglio, quello visto a Baku non è che sia stato proprio calcio champagne. È vero che la Roma si è ritirata su in classifica anche grazie a delle vittorie, direi, obbligate, insomma. Perché Ancelotti tutto sommato... No, per poi insomma, io Roma sappiamo che piazza è, quindi insomma sbagli una mossa e finisce nell'occhio del ciclone con tutti i media che stanno addosso. No, cioè, assolutamente, quindi questa è assolutamente una partita, non dire crocevia, magari alla settima è un po' tanto, però insomma in effetti è una partita che conta davvero molto, soprattutto per il Milan, per le cose che abbiamo detto, perché insomma ha preso due batoste clamorose tra Lazio e Sampdoria, e nel risultato ma anche nel gioco. Insomma, non puoi andare a Marassi con la Sampdoria e fare zero tiri in porta, insomma, quindi... Sì, c'è anche... Prego Dario. No, c'è un altro tema che stavamo sviluppando off record con Roberto di giornata, Giovanni lo introdurrei rapidamente, però l'infortunio di Belotti che preoccupa Torino tutta, stiamo aspettando delle notizie. Allora la raccontiamo agli amici a casa, a una decina di minuti dalla fine della partita contro il Verona, Torino-Verona, il risultato era sul 2-0, Belotti ha fatto un movimento strano, si è impiantata la gamba, il ginocchio, c'è stata una rotazione, le prime immagini sono state preoccupanti perché Belotti è stato portato anche lui fuori. Ha fatto un brutto gesto, proprio, esatto, no? come se qualcosa si fosse rotto. È stato portato fuori in barella, molto dolorante. Devo dire che dopo qualche minuto, al di là del dramma sportivo del Torino, che è rimasto in 10 perché aveva finito le sostituzioni ed è stato rimontato dal Verona, c'è stata un'immagine dalla panchina più rassicurante, con Belotti che era lì, stavano armeggiando sul suo ginocchio, ma sembrava molto più sereno. Certo che, visto quello che ci attende in nazionale, allargo il discorso anche a Pierluigi Pardo, perdere oggi Belotti sarebbe davvero un mezzo disastro. Un gran immobile. Sì, ma insomma, sì, qui bisogna soltanto sperare, non ci sono molte alternative. È chiaro che Belotti è un giocatore importante, è altrettanto vero che in questo momento Immobile sta addirittura meglio dal punto di vista del senso del gol, quindi tra i problemi, ragazzi, scusa, ci sono, Pier, sarebbe un disastro più per il Toro che per la nazionale, esatto, con Pardon, esatto. Sarebbe un disastro sicuro per il Toro e sicuramente un problema anche per Ventura. Sì, io vi ricordo che noi dobbiamo vincere queste partite, non tanto per arrivare secondi, che più o meno ma per evitare di perdere lo status di testa di serie negli spareggi, perché poi dopo, se capitiamo contro la Croazia di turno, ecco, non lamentiamoci. Allora, ringrazio intanto Dario Ricci e il suo ospite, Roberto Condio della Stampa, grazie da San Siro. Grazie. Ciao. Grazie Roberto, grazie Dario. Ovviamente con te torniamo nei minuti di immediata vigilia della partita che seguiremo poi dalle 18 in diretta da San Siro, Milan-Roma. 800-24-0024 sta per parlare Simone Inzaghi ai microfoni di Premio. Intanto c'è Ugo da Reggio Emilia. Ugo. Sì, buonasera. Vai. Buonasera. Allora, io volevo fare il punto della situazione Inter, perché ormai dopo 7 partite il punto si può fare, no? Allora, giocatori senza gamba, senza corsa, giocatore con una tecnica a bassa velocità, foto che ha fatto Nando Orsi, perfetta, direi, da Benevento, perfetta, e quindi saranno probabilmente gli ultimi punti che faremo, molto probabilmente. Penso, ho l'immodestia di capirne qualcosa. No, ma qui abbiamo dei giocatori che vanno ai due all'ora, se appena aumentano tecnicamente la velocità, la circolazione di palla, sbagliano tutto. In più abbiamo anche qualche presuntuoso, cognome e nome, Miranda, qualche presuntuoso che pensa di essere buono e cala la concentrazione e fa far gol agli avversari. Noi abbiamo preso gol oggi 7-2, guardate le immagini, 7-2 abbiamo preso gol dal Benevento, non dal Napoli o dalla Juventus. Però perdonami Ugo, per carità, ha sbagliato, sembra certamente l'analisi. Qualcosa ma sembra l'analisi di una squadra in fondo alla classifica, nel senso, io apprezzo molto l'analisi dell'ascoltatore e la trovo molto, molto onesta, perché insomma è sicuramente una forma di onestà intellettuale che mi piace, però mi sembra un po' catastrofista. Cioè, sì, l'Inter ha fatto 19 punti, ora è evidente che questi 19 quando punti comincia a giocare quanti ne fa? No, ma la vera domanda è questa, la domanda sull'Inter è sempre la stessa, cioè comincia a giocare perché sta continuando a vincere, che è particolarmente importante, ma non sta dando la sensazione di un'evoluzione di partita in partita. Quindi il bicchiere è mezzo pieno, perché comunque vincere non è mai banale, non è mai scontato, anche se onestamente il calcio di oggi con la differenza che esiste fra grandi e piccole, con squadre a 21 e squadre a 0 dopo 7 giornate, insomma è chiaro che è un po' meno rilevante rispetto a qualche anno fa, però comunque vincere è sempre una cosa positiva. La crescita dal punto di vista tecnico non la stiamo vedendo, questo è secondo me abbastanza pacifico. Vabbè, però cioè, finché vinci hai tempo, sì, per continuare. Oggi Spalletti a non ha avuto le risposte che chiedeva anche ieri, no, alla vigilia di questa partita. 19 punti dopo 7 partite. Adesso io, no, però vi cito anche un altro dato se volete. È stata questa la partita in cui l'Inter ha tirato più volte in porta di tutto il campionato. Per distacco è vero che ha giocato a Benevento, però è anche una partita nella quale ha concesso qualcosa in più rispetto alle altre volte. Insomma, oggi è stata una partita un po' più aperta rispetto alle altre. Il livello del Benevento, onestamente, insomma, non me ne vogliano in questo momento, cioè dobbiamo fare un po' di proprietà transitiva e pensare come ha perso col Napoli, come ha perso con la Roma. Quindi se sì, io... il paragone è quello ed è un paragone che boccia dal punto di vista del gioco. Però ci sono 19 punti in questo momento, l'Inter aspettando Atalanta e Juve seconda in classifica, insomma, secondo me dopo 7 giornate il bilancio, il primo bilancio non è positivo, tutto negativo, perché, no, ma non solo, è molto positivo, cioè Spalletti ha riportato una razionalità, una capacità di cavarsela, uno spirito di squadra, ha rimotivato alcuni giocatori, la doppietta di Brozovic oggi, quella che ha fatto Perisic in avvio di stagione, D'Ambrosio ha fatto un buon avvio di stagione, tanto per fare un esempio, Handanovic c'era e continua a esserci, insomma sono tutte cose oggettive. Poi oggi con il Benevento e l'Inter è partita 2-0 dopo un pugno di minuti, infatti, e quindi infatti, anche lì dobbiamo fermarci, no? Sì, dobbiamo fermarci. Adesso approfondiamo anche un altro tema, perché oggi è stata giornata di VAR, si è visto una lunga attesa all'Olimpico di Torino tra Torino e Verona per il gol del 2-1 di Ken. Adesso chiediamo ai nostri esperti off record se era buono il gol annullato al Benevento in fuorigioco, perché siamo veramente a questione di millimetri e con il VAR i millimetri contano. Quindi contiamo di darvi la risposta da qui alle 19:00 24:00 24. Arriva Stefano Colantuono, giusto? Arriva Stefano Colantuono, poi torniamo a San Siro. Un minuto, insomma, torniamo qui. Tutti convocati. Cosa hai detto alla squadra nell'intervallo? Perché nel secondo tempo c'è stato lo spirito e la reazione giusta. Che dovevamo fare meglio, perché avevamo fatto discretamente, probabilmente avevamo sbagliato in qualche occasione l'ultimo passaggio che sarebbe stato decisivo. Il Sassuolo stava facendo una buona gara e quindi insomma ci aveva creato problemi. Poi siamo stati bravissimi il secondo tempo ad alzare il ritmo, a finire in crescendo, calcolando che era la settima partita in 21 giorni con tutto quello che abbiamo passato a livello di infortuni. Bravi ai ragazzi, perché era importante chiudere nel migliore dei modi. Adesso in questi 15 giorni cercheremo di recuperare qualche giocatore. Allora, questo è Simone Inzaghi, microfono di Mediaset Premium. Saluto Stefano Colantuono. Ciao mister. Buonasera. Buon a voi. Mister. Sapete che la Lazio è il secondo attacco dopo il Napoli, tolta la Juve che gioca questa sera, magari risupera la Lazio, ma insomma il dato mi sembra comunque significativo. Simone Inzaghi sta davvero facendo un capolavoro. Sì, ma non è solo oggi, ne ha fatti 19 nelle prime 7 partite del campionato. Mi dite, parto da Stefano Colantuono, poi c'è più Luigi Pardo, mi dite un aggettivo per Simone Inzaghi, Stefano? Si possono usare solo aggettivi importanti, straordinario, bravo, quello che volete, sta facendo un grande lavoro. Ma se ricordate della Lazio, proprio con voi ne avevamo parlato, credo forse una decina di giorni fa, e ne avevamo parlato molto bene, dicendo che probabilmente era stata un po', è sempre un po' sottovalutata sta Lazio quando si fanno i giudizi precampionato, non la si cita mai, e invece sta lì. Benissimo, benissimo, continuiamo a dirlo io e Pardo, sembriamo due dischi incantati. Io ho il copyright dall'anno scorso, questa la rivendico proprio da quando per una serie di motivi è saltato il colpo Bielsa. Pardo, usiamo il plurale, continuo a dire la stessa cosa, siamo noiosi. Assolutamente, non c'è dubbio, no? Bielsa, insomma, i biografi di tutti i convocati ricorderanno una telefonata con Lotito proprio nelle ore turbolente in diretta del mancato poi arrivo di Bielsa, quando era chiaro che qualcosa non stava funzionando, l'allenatore era atteso e non arrivo più. Io penso che quella mossa lì era una mossa essenzialmente molto mediatica, è quasi una captatio benevolentia, perché sappiamo che Lotito sembra sempre che debba farsi perdonare qualcosa agli occhi di molti tifosi della Lazio, insomma è inutile girarci attorno. C'è stata, adesso un po' meno, ma ci sarà sempre molta polemica da parte di una fetta anche significativa dei tifosi della Lazio, non soltanto quelli della curva, quindi questo è un dato oggettivo. Però la verità è che poi quel mancato arrivo ha fatto sì che si sia data fiducia a un allenatore che aveva già dimostrato di avere delle qualità importanti e che nel frattempo è cresciuto moltissimo, e poi c'è un lavoro della società che è straordinario, perché Tare e Lotito lavorano. Luis Alberto, che stiamo vedendo in queste giornate, è un giocatore che sinceramente non ci aspettavamo così. Ma poi mettiamoci Milinkovic-Savic, mettiamoci De Vrij, mettiamoci Immobile, mettiamoci Parolo, la lista è lunga. Non lunghissima, perché l'unico difetto che riesco a trovare a questa squadra è il fatto di essere corta nella qualità. Cioè, non ha tantissimi giocatori che possono aggiungere qualcosa. Vorrei chiedere a Stefano Colantuono invece lui in che partito si iscrive quando si giudica fin qui il campionato dell'Inter, se fra quelli che i punti coprono tutti o se tra chi dice dopo la sosta si alza l'asticella e ci sono dei limiti evidenti. Ma intanto i punti sono importanti, perché poi alla fine contano quelli. Poi è chiaro che l'Inter deve migliorare, ma questo lo sa anche Spalletti. Oggi non aveva una partita semplice l'Inter, ha avuto solo il difetto di non chiuderla, di non fare il terzo gol, e quando vai a giocare in Italia anche con squadre che stanno lottando per retrocedere, se la partita poi non la chiudi fino alla fine rischi di poterla pareggiare da parte degli avversari, di tenerla persa. Però l'Inter non gli possiamo dire nulla, insomma guardiamo la classifica, oggi stacchiamo la Juventus, ma è seconda, ha fatto un pareggio e tutte vittorie. Cosa gli vuoi dire? Ma Spalletti ha dentro la rosa la possibilità di giocare meglio o no? O deve cambiare modulo, ad esempio? No, io sono convinto che crescerà sicuramente l'Inter, perché ha giocatori di qualità. Poi sarà lui che vedrà quello, se dovrà cambiare il sistema di gioco o no. Adesso lui predilige molto, molto la qualità, perché se andiamo a guardare la promozione, gioca praticamente con quattro attaccanti, perché poi Brozovic è vero che nasce centrocampista, ma è un centrocampista con spiccate attitudini offensive, e in più hai Vesino e poi Cavallero metà campo. Sono sei giocatori più portati a giocare che a difendere. Infatti, se guardate le azioni del Benevento, sono tutti di ripartenza con la squadra un po' sbilanciata. Poi Stefano, scusami, ma sì, oggi l'Inter, stiamo a discutere sulle proporzioni numeriche di questo risultato, guardando a cosa ha fatto il Napoli, guardando tutte le altre che hanno preso a pallate il Benevento. Però l'Inter è partita sopra di due gol, pronti via. Poi non è facilissimo cioè gestire, farne degli altri e rullarli con 6-7 gol di scarto, no? No, questo è difficile. In Italia è difficilissimo. Poi, se sei bravo a farlo, come capita magari al Napoli spesso, ci riesci. Ma, per esempio, l'Inter ha avuto anche l'occasione per fare il 3-0. Poi, subito dopo, è venuto fuori il 2-1. Finisce il primo tempo 3-0, probabilmente nel secondo tempo, poi si vede un'altra partita. Invece il Benevento sono stati bravi, perché hanno accorciato le distanze e hanno tenuto viva la partita fino alla fine. Però le vittorie, scusate, poi mi metto in silenzio. I campionati o i risultati importanti passano con queste vittorie, su questi campi. Sì, dove soprattutto l'Inter ne ha fatte tante di queste vittorie. Io una volta ho usato l'aggettivo sporco, nello sporco della partita, e qualcuno si è arrabbiato, non vi dico chi, per cui è un aggettivo che ho imparato a usare con cautela, però vedo che lo si usa spesso. Partite sporche, le partite difficili, le partite non belle, per cui veramente questa è una qualità di una squadra. Quando questa cosa succede per 4-5 partite consecutivamente, vuol dire che evidentemente ci sono dei valori. C'è qualcosa che scatta, c'è un'arte di arrangiarsi e di cavarsela in certe situazioni, di saper soffrire, che non basta alla lunga, perché è ovvio che se alla lunga tu non riesci ad aumentare il livello del tuo gioco, non vai lontano. Sì, arrivano però anche i momenti in cui ti gira storto. Rispetto agli 1-0 di Mancini 2 anni fa, secondo me questa squadra ha più margini e io la vedo meglio. Intanto mi scrive Luca Marelli, cui ho chiesto di controllare la cosa di cui parlavamo prima, il gol annullato, perché ci state scrivendo in tanti, al Benevento sul risultato di 2-0, perché non è intervenuta al VAR, gol annullato per fuorigioco. Mi scrive lui: fuorigioco di un nulla, ma fuorigioco. Mentre c'è qualche dubbio in più sul primo gol del Verona, che proprio il VAR ha segnato e Ken onestamente pare leggermente in fuorigioco. Un casino infernale a Verona. Si sono persi altri 5-6 minuti a Torino, e si è andati avanti così. No, fra l'altro il Torino aveva già scusa, in 30 secondi. Questo è, come abbiamo detto dall'inizio, è l'anno in cui si sbaglia meno, però gli errori pesano di più. Ma poi il Toro ha una tradizione. No, voglio dire, il Toro ha una tradizione. Il Toro ha avuto alla prima giornata di campionato un episodio clamoroso contro, per una VAR inapplicabile, una proprio un bug del sistema del VAR, che se tu fermi un'azione uno degli per un errori. Po' di gioco che non c'è, poi non puoi più tornare indietro. È uno dei problemi del VAR, proprio il caso limite, veramente è un bug del sistema. Oggi ha avuto quest'altro episodio, l'Inter di contro, resta al di là il fatto che Marelli ci dice che c'era questo fuorigioco di qualche centimetro, ha avuto fino a questo momento insomma qualche piccolo vantaggio. Ripeto, sono a premessa, partendo dalla buona fede assoluta, il VAR nasce proprio per rendere ancora più trasparente tutto il meccanismo, quindi se pensavamo alla buona fede prima, dobbiamo pensarlo maggiormente adesso che è stato fatto questo sforzo. Però è pure chiaro che questi errori adesso pesano di più. E pesano molto. Allora, abbiamo un minuto e mezzo prima del traffico. Io voglio salutare Colantuono chiedendogli se è d'accordo con Sarri, che ho già detto, tutti dite che il Napoli è sul livello della Juventus, è la vera antagonista, la verità è che la Juventus resta sempre un passo avanti. No, quest'anno sono molto vicino. Quindi Sarri cosa sta facendo? Mani avanti? No, non credo. Prova a spostare avanti, la pressione? È probabile questo, però il Napoli è molto forte. Ragazzi, oggi il Napoli ha fatto una partita meravigliosa, per carità, mi direte, il Cagliari, adesso è caduto non so chi dei due, è caduto Piera, adesso lo recuperiamo, però oggi il Napoli ha suonato un concerto. Cioè, il Napoli è veramente una squadra forte, gioca veramente bene, mette subito al sicuro le partite, aveva fatto una partita simile a quella dell'Inter un po' a Ferrara. Era stata una partita un po' sporca, come diceva Pierluigi, però oggi ha dimostrato tutto il suo strapotere e nella squadra in questo momento che può mettere in grossa difficoltà la Juve. Grazie Stefano. Ciao, grazie mister. A buon lavoro. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Stefano Colantuono, cui risparmio la domanda se dopo la sosta lo troveremo su qualche panchina, perché è inelegante. Juric è stato confermato dal Genoa. Sono altri allenatori che hanno delle posizioni non semplici, arriva la sosta, non abbiamo ancora un esonerato e questo per la Serie A secondo me è un vanto, anche perché gli altri campionati gli altri campionati hanno già degli esonerati, anche la Premier League, anche la Bundesliga, che ha l'esonerato per eccellenza, ovvero Carletto Ancelotti. Però adesso arriva la sosta e il nome di Colantuono gira. Che dici? Quello che gioca tra un quarto d'ora esatto sulla panchina rossonera. Vediamo se dice qualcosa Mirabelli, ma lo sentiamo dopo il traffico. Convocati. Tutti convocati. Però la domanda che le faccio è: quanto tempo ha Vincenzo Montella? Possiamo quantificarlo? Ma no, noi quanto tempo abbiamo, nel senso che sappiamo che ci vuole del tempo per amalgamare una squadra, sappiamo che abbiamo pochissimo tempo perché comunque ci sono delle gare sia di campionato che di coppa che dobbiamo affrontare, che vogliamo sempre giocare per vincerle, sappiamo che vogliamo entrare nell'Europa che conta, sappiamo tutto questo, abbiamo bisogno del tempo con il lavoro. Speriamo di accorciarlo, perché comunque una squadra tutta nuova, tutta di giovani anche, e quindi non è facile amalgamarla, ma noi ci stiamo lavorando e siamo consapevoli che poi dopo siamo consapevoli delle nostre forze e siamo sicuri di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Questo studio. Massimo Mirabelli che sta parlando a Premium Sport, abbiamo recuperato per Luigi Pardo. Ecco. Non c'è la data di scadenza su Montella, allora. No, sono malizioso io o svicolo un po'? Montella quando ne parla? No, tutti noi. Vabbè, ma Mirabelli non credo lo esoneri. Ma guarda, oggi ha parlato fra l'altro a margine del Wired Express, cioè no al margine, abbiamo fatto un dibattito io, Bellinazzo e Passone a Firenze sul Wired Express, c'era appunto Passone collegato da Milano e Bellinazzo gli ha chiesto la priorità nei tre obiettivi della stagione del Milan dal punto di vista finanziario, dove quello più squisitamente tecnico è l'arrivo alla zona Champions League e gli altri due sono invece di natura strettamente finanziaria e si legano al patto di fair play e al rifinanziamento in maniera vantaggiosa del debito. E Fassone insomma ha detto la verità, cioè che alla fine poi la Champions dal punto di vista cronologico sarà l'ultimo dei tre elementi, ma che sono tutti e tre importanti da centrare e sono in qualche modo anche intercorrelati, perché è ovvio che un approdo in Champions League significherebbe per il Milan avere un vantaggio economico molto forte, sì, anche rassicurato pesa, sul fatto pesa anche, però Certo che pesa, ha rassicurato ovviamente il fatto che non è che si chiude la Glerse se il Milan dovesse centrare la Champions League, anche perché non è che avrebbe voluto dire il contrario. Questo al Guardian, se non c'è la Champions serve la cessione di un big per andare a coprire. È ovvio. Aspetta che andiamo a San Siro al nostro Dario Ricci. Dario, eccoci, formazioni Giancampo, già vi abbiamo detto squadre confermate con Massimo Ciccognani, inviato del tempo. Proviamo a vedere quanto pesa questa partita per la Roma, perché finora abbiamo polarizzato molte delle osservazioni sul Milan, Massimo, però non è che pure che Carletto Ancelotti guarda o potrebbe guardare anche a questa panchina giallorossa, che poi così solida non è che sia, Ma io non credo, perché la Roma ha dato ampio tempo e margini a Eusebio Di Francesco. Ma Di Francesco, tu mi chiedi quanto conta questa partita? Conta tantissimo, perché ieri in conferenza Eusebio ha detto una cosa importante: vogliamo tornare da Roma e leggere da Milano e leggere domani sui giornali il titolo "La Roma c'è". Quindi significa che dopo aver fallito per una serie di congetture il match point con l'Inter, la Roma viene qui a San Siro a giocarsi una carta importante. È chiaro che se vince entra in piena corsa per i quartieri alti, se fallisce questo appuntamento c'è da rivedere qualcosa. Evidentemente non è una Roma da primi posti. È una Roma che ha tanti assenti, è una Roma che rilancia per la terza volta credo nelle ultime quattro partite il Sharawi titolare dal primo minuto, è una Roma che viene dalla partita di Cadi contro il Karabakh, che ha portato più critiche che elogi malgrado i tre punti. Secondo me è esagerato lo scetticismo, non so cosa pensate voi su Di Francesco, però è un dato oggettivo. Questa partita è uno spartiacque importante, credo, della stagione della Roma, quantomeno dal punto di vista ambientale. Ma per quale ragione c'è scetticismo nei confronti di Francesco? Scusa, ha sbagliato una partita che è quella in casa con l'Inter, mi sembra. Sì, che ha sbagliato 20 minuti. Della Roma si è lì da vedere. Ha avuto un brutto precampionato, ha vinto a Bergamo senza brillare. Però il punto secondo me si lega a quello che dicevamo all'inizio, cioè sulla differenza che esiste oggi fra grandi e piccole. La differenza che esiste fra grandi e piccole è talmente grande, talmente enorme, che gli scontri diretti diventano partite tra la vita e la morte. C'è poco da fare. Cioè la Roma paga quella mezz'ora finale in una partita in cui c'era un rigore per andare sul 2-0 e tre pali, quindi poteva andare sul 2-0 in grande serenità. Però ha pagato quello, poi non ha giocato contro la Samp, forse stava anche un bene, dice qualcuno, in quei giorni, ma sta di fatto che ha tre punti in meno in classifica, quindi c'è anche questa ulteriore deformazione, no? Questa illusione ottica di vederla un po' più basso di quello che è. Io credo che stia facendo bene, io credo che la Roma sia in crescita, credo che anche contro il Karabakh non abbia fatto male, ha avuto un buon approccio alla partita, ha fallito tante occasioni, Dzeko lo sappiamo, l'attaccante segna tantissimo, sì, se vogliamo un po' la fotocopia di quello che stiamo dicendo sull'Inter di oggi a Benevento quando vai su dopo 10 minuti. Aspetta Pier, perché devo lasciare i nostri ospiti che stanno prendendo posto in tribuna stampa a San Siro, tra 6 minuti è il momento di Milan-Roma. Dario, se volete fare un intervento per chiudere e anche raccontarmi come si presenta San Siro a proposito di questione entusiasmo. San Siro sicuramente è un bello spettacolo, anche perché c'è una bella rappresentativa dei tifosi giallorossi, si è arrivati anche in molti casi qua alla spicciolata, diciamo i romanisti milanesi hanno raccolto l'occasione, tutto in un clima finora, da quello che almeno ho potuto verificare io, molto tranquillo. Massimo, ti chiedo ancora e poi ti lascio al tuo lavoro, ma tu che hai la penna, che riesci a misurare un po' la temperatura dello spogliatoio giallo-rosso, effettivamente si rema tutti dalla stessa parte, sono appianate quelle tensioni che hanno visto Dzeko sbottare inizialmente, Nainggolan non troppo contento di questa posizione nuova che lo schieramento del nuovo tecnico gli riserva, oppure? No, tutto risolto, anche perché poi Dzeko ha ripreso a segnare, Nainggolan gioca leggermente più avanti e comunque Di Francesco tu lo hai preso per un'idea calcistica molto importante, gli devi dare anche a lui il tempo di far apprendere i suoi uomini quelli che sono le sue metodologie di calcio. Sono d'accordo con Pierluigi quando dice che la Roma sta facendo bene, ma è inevitabile Perché che oggi diventa un banco di prova talmente importante per assaggiare non solo le qualità, ma soprattutto avere la risposta su dove può arrivare questa squadra. Grazie a tutti e due, e con Dario ovviamente ci risentiamo dopo il GR delle 18 per raccontarvi in diretta il primo tempo di questa partita di Milan-Roma da San Siro. Bel banco, io ripeto la classifica: Pier, Napoli 21, Inter 19, Juve 18, gioca con l'Atalanta alle 20:45. A proposito, dopo il GR delle 18 parleremo molto delle ore immediate di vigilia di questo Atalanta-Juventus. Lazio 16, Roma-Milan 12, insieme al Toro che oggi si è fatto fermare dal Verona. Parleremo anche di Formula 1 dopo le 18. Leggo un messaggio che è arrivato: Francesca da Mantova, sono appena venuto via da Maranello, ho visto l'ultima Ferrari vincente, quella di Raikkonen nel 2007, mi è venuto il magone. Oggi è andata in scena per la seconda volta consecutiva la Ferrari Tafazzi. Ma Ferrari Tafazzi, ci sono dei problemi precisi. Capiremo se è sfortuna o se invece è il prodotto di qualcosa. Pier, resta con noi ancora per un blocco dopo il GR del 18. Diamo spazio anche agli ascoltatori. 800 24 00 24. Torniamo subito. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Allora, c'è Pierluigi Pardo, c'è Andrea da Milano, 800 24 00 24. Prima però c'è Dario Ricci, rapido da San Siro, per raccontare che cosa sta succedendo nei primi minuti. Siamo al sesto minuto di gioco, Giovanni, finora niente da segnalare se non la buona attitudine di Borini, impiegato come ricordavamo come esterno destro del centrocampo a 5, bravo l'ex romanista tra l'altro a chiudere in un paio d'occasioni su El Shaarawy, che è altrettanto pronto a ripiegare sul centrocampo ma anche a proporsi in avanti. Adesso c'è un rinvio impreciso di Allison con i piedi, ma salva tutto Fazio che rilancia a centrocampo verso Nainggolan. La Roma può ripartire. Seguiamo questa discesa di Florenzi sulla destra, chiuso da Rodriguez, il cross al centro di Florenzi, Bonucci interviene, libera al limite dell'area e poi è Romagnoli di testa a rimandare verso il centrocampo con la palla che arriva a De Rossi ma è recuperata ora da Çalhanoğlu che prova a lanciare in profondità verso André Silva, chiuso in fallo laterale da Manolas. 7 minuti e 27 secondi di gioco in questo istante, 0-0 a San Siro tra Milan e Roma. E insomma, questo è il racconto dell'inizio. Allora, carissimo Pier, Andrea da Milano. Andrea. Buonasera a tutti. Vai. Io volevo porre tre argomenti di cui chiederei una vostra valutazione da competenti come siete. Vai. Uno, un campionato a 20 squadre, diciamo che è a 10 squadre, 10 squadre non sono degne di questa Serie A. Secondo, le squadre che vanno a fare spenti, diciamo la Lazio, l'Atalanta, e ci metterei anche il Chievo per esempio, con un organico decisamente diverso, hanno tutti un minimo comune denominatore, che è quello che hanno presidenti che fanno fare i presidenti. Terzo argomento, i fuoriclasse o presunti tali, sicuramente su tutti i Higuain, Dybala. Con questo, con il primo argomento che ho trattato, vorrei vederli in un campionato un po' diverso. Ecco. Prima sì, di dire vale credo anche per fuoriclasse che girano da altre parti, no Pier? Quando parliamo magari di record, di numeri incredibili, di gol segnati. Non è che Neymar nel campionato francese abbia dei grandi interlocutori. Il tema è la sproporzione, dai, la sproporzione che esiste tra le grandi e le piccole. Il discorso sulle 20 squadre è giusto. Io credo in assoluto che tornare al 18 in generale... sarebbe un passo indietro, cioè i grandi campionati verso i quali dobbiamo tendere sono campionati con 20 squadre, quindi il punto non è quello di diminuire il numero delle squadre. Secondo me innanzitutto bisognerebbe aumentare le retrocessioni, sapete come la penso, per rendere tutto un pochino più motivante perché insomma se fossero già 4 retrocessioni invece che 3 probabilmente le cose potrebbero un po' cambiare dal punto di vista della competitività. E poi deve crescere la classe media. Oggi appunto con Belinazzo si parlava del fatto che l'obiettivo deve essere quello di tendere a, dal punto di vista economico, ad avere 7-8 società in Italia che riescano a fatturare intorno ai 200 milioni di euro. Lo so che è un discorso un po' arido, cosa che è lontanissima, ci accontenteremo di avere 7-8 squadre che stanno nell'arco di una quindicina di punti a fine campionato. Però mi sembra peggio dell'anno passato, Pierluigi. Io invece non condivido, secondo me non è peggio. Dici? Secondo me non è peggio, secondo me si è in alto, si è abbastanza livellato. No, cioè, ma immagino che il divario tra destra e sinistra della classifica. Ne parliamo fra qualche settimana, ma ad esempio l'amico diceva ci sono 10 squadre degne della Serie A e 10 no. Se io guardo oggi la classifica vedo che tra le 10 che non sarebbero degne della Serie A ci sono Atalanta, Fiorentina, la sto leggendo, destra della classifica. C'è il Cagliari ad esempio, il Cagliari è una squadra che fa un ottimo calcio, poi non è competitiva ad esempio contro il Napoli, ma non necessariamente fa vedere delle brutte cose. Torniamo a San Siro che c'è un momento di pressione della Roma. Dario. Sì, giusto Giovanni, siamo al secondo calcio d'angolo consecutivo per i giallorossi, ancora sul pallone Florenzi, l'arbitro Banti sta mettendo pace tra De Rossi e Chessy che si stavano sbracciando a centro area, il tocco di Florenzi che recupera ora il pallone, il cross al centro, Biglia fa muro, spinge col petto e poi Romagnoli, anzi no, è Kalinic a liberare, riconsegnando però la palla ai giallorossi, lancio in profondità verso il Sharawi, ancora Borini a chiudere su El Sharawi che ora viene però, torna sì in possesso del pallone ma pizzicato giustamente in fuori gioco. 15° di gioco di questo istante, 0-0 qui a San Siro, il match come del resto rispecchia il risultato assolutamente in equilibrio, con la Roma che però ha guadagnato qualche metro nel baricentro del gioco in questi ultimi frangenti. Sì, Roma che sta giocando in maniera abbastanza costante nella metà campo del Milan. Scrive un amico 349-238-6666 un giudizio sulla Fiorentina che oggi ha perso contro il Chievo. La Fiorentina è un work in progress, qualche partita meglio, qualche partita peggio, però io credo che la dimensione della squadra sarà una dimensione da ottavo, decimo posto, questa è la mia sensazione. Poi così giù, neanche Europa League, no? Neanche zona Europa League. Mi sembra difficile, cioè prendere l'ultimo posto per Europa League, quest'anno è il settimo, credo che sia l'obiettivo della stagione della Fiorentina, del Torino, di queste squadre, dell'Atalanta, delle squadre di quella fascia lì, e fra queste c'è sicuramente la Fiorentina, però è abbastanza evidente che insomma stata la Fiorentina ha monetizzato, dai, è inutile girarci attorno, ha monetizzato in maniera abbastanza clamorosa, cambiando tanti giocatori, vendendo tanti giocatori e insomma puntando sui giovani. Devo dire che un'idea c'è onestamente, nel senso che da questo punto di vista ci sono dei prospetti interessanti, quindi almeno questo vale. Sì, almeno questo è qualcosa su cui poi si può investire per il futuro. Allora, io saluto e ringrazio Pierluigi Pardo, a domani dopo il GR delle 14. Ciao Pier, vi leggo le parole di Mihajlovic a proposito dell'infortunio di Belotti, uscito in barella per un problema al ginocchio destro. Ha detto Mihajlovic: non sappiamo ancora nulla, farà gli esami, avremo gli esiti domani o dopodomani. Aveva già preso una botta nel primo tempo, gli avevo chiesto come stava all'intervallo, mi aveva dato garanzie che era tutto a posto. Per questo però avevo fatto scaldare Sadiq. E quindi insomma Torino e Nazionale di Ventura che attendono notizie sul ginocchio di Belotti. Abbiamo il traffico, poi torniamo a San Siro da Dario Ricci, apriamo anche la pagina di Atalanta Juventus, parliamo di Sarri che oggi se l'è presa per l'ennesima volta col calendario e col fatto che il Napoli debba giocare il 1° di ottobre a mezzogiorno. Oggi oggettivamente faceva caldo a San Paolo, però, però vale per tutti. Traffico, un minuto, torniamo. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Tutti convocati. Watching me, shadows moving in symmetry. Close your eyes, imagine me. Gonzalo non si deve accontentare di quello che ha fatto. Gonzalo deve avere l'ambizione di poter lottare con i migliori. Domani gioca. L'altro giorno è entrato con un piglio diverso, ma questo deve essere il piglio di tutto il campionato, di tutta la stagione. Juventus si presenta sola, anche nelle giornate meno fortunate riesce comunque a vincere le partite. Ha dei giocatori che quando si presentano al limite dell'area sono micidiali nelle conclusioni, nel tiro, quindi gli basta veramente poco per andare a rete. Gomez! Il gol dell'1-1! Da solo Belli li segna in Europa i gol, il Papu Gomez! Damn yourself, let it go. Tables turn, but you never know. Close your eyes, imagine me. Bisogna stare dentro la partita per 95 minuti, perché a Bergamo le partite non sono mai finite. Basta vedere cosa è successo l'anno scorso, quando dopo il 2-1 ci siamo rilassati e abbiamo beccato il 2-2. Noi abbiamo voglia di giocarcela, ci metteremo tutto per questo, può essere anche il momento giusto. Stiamo vivendo un momento veramente bello e sarebbe una grande soddisfazione per i nostri tifosi. Ah, saluto per Paolo Marino, ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao direttore. Buon pomeriggio, ciao ragazzi. Però vado ciao. Subito a San Siro perché la Roma è andata vicina al vantaggio. Dario. Sì, 18esimo di gioco, intanto il contropiede del Milan. Seguiamo questo contropiede orchestrato da Çalhanoğlu, la conclusione di Çalhanoğlu del numero 10. La palla ribattuta da Fazio, ma Milan che torna in possesso del pallone. Allora sulla destra attacca Borini, più il cross al centro che però... e si trasforma più che altro in un traversone che taglia tutta il campo e finisce in fallo laterale. Dicevi giustamente, Giovanni, pochi istanti fa, 16esimo, Roma vicino al vantaggio, c'è stato un retropassaggio dalle parti di Donnarumma, impreciso, come non di rado gli accade nel rinvio di piede, palla che finisce a Strootman che non ci pensa su due volte, dai 25 metri prova al volo con un piatto destro che finisce davvero fuori, non di molto, anzi direi proprio di pochissimo, vicino al sì, palo. Impreciso è un eufemismo, Dario, disastroso Donnarumma, infatti. Disastroso Donnarumma nella fase con i piedi. Grazie Dario, torniamo da te. Ciao, tra qualche Dario. Minuto. Non bene, per Paolo Marino, Donnarumma deve lavorare su quel destro. Assolutamente, oggi... Dov'è che aveva pigliato quel gol pazzesco a Pescara? A Pescara, sì, sì. Sì, sì, deve migliorare tanto. Senti un po', che Juventus ti aspetti questa sera? Altra partita bellissima, Atalanta-Juventus, poi cerchiamo anche di capire quanto influirà la fatica di Europa League per l'Atalanta, che ha giocato comunque giovedì sera a Lione, una partita intensissima, direttore. Intanto aggiungo giù il cappello, direttore, davanti all'Atalanta per come sta interpretando Europa League, perché mi ha mandato ai pazzi per diverse stagioni l'atteggiamento con cui le nostre affrontavano quel torneo. Sì, è vero, l'Atalanta sta dando un esempio a livello di tutto il contesto atalantino, anche perché innanzitutto è il pubblico di Bergamo che dà importanza a questa manifestazione, trascina l'allenatore, la squadra. Infatti io dico che è emblematico che non si vedeva dal calcio antico che 20.000 spettatori seguissero una squadra in trasferta, come è accaduto per la partita di Reggio Emilia con l'Everton, quindi uno stadio dove c'era più gente di quando gioca il Sassuolo in casa, insomma. E niente, stasera sarà una partita secondo me apertissima, perché comunque l'Atalanta ha degli adeguati turnover da fare. Tu dici che non peserà la fatica anche psicologica della battaglia di Lione? Non credo, perché io ho seguito un po' tutte le partite dell'Atalanta in televisione e ho visto una condizione fisica splendida, cioè l'Atalanta non ha mai calato l'intensità, il ritmo, anche nelle partite in cui ha perso, come quella con la Roma in casa, e dove nel secondo tempo ha costretto la Roma a difendersi, e in tutte le partite l'Atalanta ha giocato, anche nella partita di Napoli dove il primo tempo l'aveva chiuso in vantaggio al San Paolo, ha giocato tutta la partita sempre con ritmi altissimi, e penso che anche stasera, trascinata dal pubblico, perché la partita con la Juve a Bergamo è sentitissima, credo che farà una prestazione tosta, ci vorrà la migliore Juventus per uscire col risultato. Che sì, perché corre leggera l'Atalanta, non ha pesi sulle spalle, che è la condizione migliore per questa squadra, quella con cui ha costruito il campionato scorso. Assolutamente sì, e poi c'ha tanti giovani che vogliono farsi vedere, che e si è creato un ambiente virtuoso. Gasperini è il vero leader della situazione e sa fare scelte molto convincenti, adeguate, e non ha paura di rischiare sui giovani, cosa che invece nelle passate stagioni magari c'era stata un po' più frenata l'Atalanta nell'utilizzo dei suoi talenti giovanili. Torna Higuain titolare, ha ragione Allegri per come l'ha gestito in questi ultimi 10 giorni? Sì, ha fatto benissimo secondo me, perché quando c'è un giocatore, soprattutto gli attaccanti, che hanno questi periodi di mezza crisi, cioè perché come non segnano 3-4 partite, l'attaccante si dice che è in involuzione, in crisi, e forse la migliore maniera per tirarli fuori da questo impeachment è sicuramente metterli in panchina, farli anche un po' incazzare. Sì, perché aveva bisogno di un paio di turni di riposo. Sì, ma anche di incazzarsi, perché non lo vedevo molto, come ha detto Allegri oggi in conferenza stampa, bisogna andare lì con ogni partita con la rabbia, con aveva la bava poca alla bocca. Fame. No, aveva ne ha un sacco di fame, anche troppa. Aveva poca fame. Neanche troppa. Sì, poi ragazzo, questi grandi giocatori sono un po' permalosi, perché insomma Higuain ha fatto gol in Champions, ha detto tutti quelli che non mi sono stati vicini, giusto, adesso è facile salire sul carro, però noi ci siamo abituati. Il primo a metterlo in realtà in discussione in questi 10 giorni è stato Allegri. Ma falso problema, prima ancora dei Higuain. Tifosi. E dei giornali. È un falso problema o falso no? Problema. Io non lo so se sia un falso problema Higuain. L'ha gestita benissimo Allegri, e Higuain si vede che a volte quando Higuain non viene sostenuto, era accaduto anche a Napoli in certi periodi, dallo smalto migliore, tende a intristirsi. A intristirsi e allo stesso tempo a deprimersi proprio, cioè lo vedi in campo che non lotta, che non corre su tutti i palloni, che è il primo segreto per venire fuori da un momento di scarsa fortuna, di appannamento, e quindi mettendolo in panchina, poi non dimentichiamo che per le grandi stelle entrare dalla panchina, se si è motivati, è un vantaggio, perché tu entri quando gli altri hanno le idee annebbiate dall'aver già speso. Sì, anche se immagino sia un discorso un po' complicato da far digerire alle grandi stelle. Ma io non dico che... però quando si gioca come ha giocato Higuain nelle ultime 4-5 partite, sia per una meritocrazia interna al gruppo squadra, che altrimenti gli altri ti criticano se il posto lo garantisci a qualcuno e agli altri no, quando calano di rendimento, sia perché devi cercare anche di farlo uscire attraverso la scossa elettrica, non sempre dando fiducia al grande campione si ha la risposta positiva, cioè dandole fiducia fino alla morte, no, anzi si crea malcontento in coloro che competono per quel ruolo, ed anche la squadra non vuole giocare in 10. No, poi se ne hai tanti di campioni devi anche imparare appunto a gestirli. Ti chiedo 30 secondi di pazienza, torniamo a San Siro da Dario Ricci. Dario, 25esimo di gioco in questo istante, gioco ancora fermo perché la Roma di fatto non riesce a rimettere il pallone in campo in modo regolare, Banti l'ha interrotto, pochi istanti fa c'è stato comunque un bel tiro da fuori di Kessi che ha mancato la conclusione di sinistro, si è coordinato però rapidissimamente con il destro e ha fatto partire un tiro dai 20 metri al lato della porta di Allison. È un Milan che sembra lasciare volentieri l'iniziativa ai giallorossi, che finora non sono riusciti ad approfittarne per puntare piuttosto sui contropiedi. E adesso c'è uno scontro di gioco però tra Fazio e Strootman, i due, il pallone stava andando appunto verso il centrocampo, i due non si sono visti, si sono scontrati e Strootman ha avuto la peggio, interviene adesso. Gioco fermo 0-0, siamo nel 26esimo minuto, quindi tra i grandi campioni che vanno pungolati per reagire, Pierpaolo Marino mette anche Bonucci. No, però il Milan non lo sta mettendo in discussione. Forse da un momento all'altro potrebbe accadere se continuerà ad avere problemi difensivi il Milan, anche perché la situazione Bonucci è sotto gli occhi dei compagni, perché ha preso una fascia che da un punto di vista gerarchico rispetto alle stagioni scorse meritava qualcun altro, e quindi questo lo mette sotto la lente di ingrandimento anche dei compagni per quello che è il modo di interpretare questa appartenenza al Milan. Guarda, io sono d'accordo invece sulla fascia Bonucci, per Paolo, sono d'accordo sulla fascia Bonucci, sì, perché è una squadra totalmente nuova, sì, poi però... lui ci mette la faccia, è chiaro che giocare alla Juventus è una cosa, giocare in questo Milan in costruzione è un'altra, Sì, però le dinamiche di spogliatoio sono diverse, perché da che mondo è mondo l'allenatore fa la riunione in precampionato con la squadra e decidono chi è il capitano in base all'appartenenza per più anni, a più presenze, oppure anche alla leadership che un giocatore ha guadagnato, ma è un problema che viene risolto all'interno di un gruppo squadra, mai è intervenuto la società dando la fascia al giocatore per farla arrivare in una squadra. Sì, qui è stato indotto da fuori. È una dinamica che poi se vai in campo e sei come Maradona, come un grande bomber che risolvi le partite, i giocatori si attaccano tutti a te e riconoscono la leadership, ma se poi cominci ad avere qualche problema, naturalmente chi doveva candidarsi o era candidato a questo ruolo, che comunque è agognato dai giocatori, non credete che sia una cosa che ci tengono a fare il capitano, ci tengono ci tantissimo tengo. Soprattutto in una squadra come il Milan, poi che la fascia è appartenuta a giocatori del calibro di Rivera, Baresi eccetera, chi più ne ha più ne metta, quindi sono dinamiche che, stando al di fuori, anche voi giornalisti che comunque vivete la cronaca delle partite, siete sempre presenti, però non avete la percezione di quello che accade quotidianamente negli spogliatoi, e allora anche Bonucci è sotto osservazione, naturalmente, sia da parte di Montella, perché sbaglierebbe se poi gli garantisse il posto a prescindere. A prescindere dalle sue prestazioni. Grazie direttore. Ciao direttore, a presto. Ciao, arrivederci. Grazie per Paolo Marino. Noi adesso ci fermiamo, e intanto ha forse qualche problema fisico Strootman, ha fatto un segno toccandosi la coscia, avremo modo però di approfittarne e di approfondire andando anche a San Siro al nostro Dario Ricci subito dopo una piccola pausa, un minuto, poi andiamo a Barcellona, il nostro Filippo Maria Ricci, saluto Carlo Genta che domani, torna ragazzi. Domani dopo il GR delle 14 avremo anche gli aggiornamenti su cosa succede in Catalogna, perché oggi la programmazione di Radio 24 è molto focalizzata sulle vicende politiche catalane. Alle 21 ci sarà anche uno speciale che farà un po' il riassunto, darà le ultime notizie e commenti su quello che è successo e che ha investito anche il mondo del calcio. Torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Rieccoci, allora, come annunciato c'erano problemi fisici per Strootman, che è stato sostituito da Pellegrini, problemi muscolari alla coscia, dunque alla mezz'ora fuori Strootman, dentro Pellegrini. Andiamo a San Siro per capire cosa è successo in questi minuti. 32esimo di gioco, Giovanni, 0-0 ancora tra Milan e Roma, proprio pochi istanti fa la conclusione dal limite dell'area di Çalhanoğlu, che è partito dalla sinistra, si è accentrato e ha concluso di destro, un destro però che è sfilato debole alla destra di Alisson, come ricordavi, prima sostituzione della gara con l'ingresso di Pellegrini al posto di Strootman, e adesso arriva anche la prima ammonizione per Çalhanoğlu, proprio reo del fallo su Perez che era lanciato verso la porta di Donnarumma. Dicevamo dell'infortunio di Strootman, che già era rimasto vittima di uno scontro con Fazio a centrocampo, come avevamo raccontato in diretta nel precedente collegamento, poi il colpo all'inserzione tra il quadricipite sinistro e il ginocchio. Di Francesco ha chiesto più volte all'olandese le condizioni, ha avuto però la risposta negativa e quindi inevitabile la sostituzione. Parlavamo, e vado a chiudere, di buoni difensori centrali o dei problemi di giocatori che militano in quel ruolo, direi finora eccellente, non è la prima volta in questa stagione e mezzo da quando è in Italia, la prova del romanista Fazio. Sì, che è una delle scoperte della Roma dell'anno scorso. Grazie Dario, 33 e 40 sul cronometro, 0-0 San Siro tra Milan e Roma. Apriamo la pagina spagnola. forse sarebbe meglio chiamare la pagina catalana. C'è qui Anna Migliorati che sta raccontando in questa giornata, in questo pomeriggio, le vicende del referendum catalano. Oggi alle 21 Radio 24 dedica un approfondimento a tutto quello che sta succedendo a Barcellona e nelle altre città della Catalogna. C'è Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, perché sono vicende che hanno intrecciato anche il mondo dello sport. Allora, prima facciamo un aggiornamento rapido sui fatti politici e di cronaca, Anna. Sì, allora diciamo subito che sono in questo momento le 18:35 minuti circa, quindi teoricamente alle 20 i seggi dovrebbero chiudersi, teoricamente, perché secondo Madrid non sono aperti, in realtà ci sono lunghe file di votanti nei posti in cui ancora si riesce a votare, tant'è che alle 20 in realtà si potrebbe anche proseguire. Come? Non si sa, perché la polizia spagnola, la Guardia Civil è ancora schierata, ci sono piccoli casi di ancora tafferugli nei seggi minori. Il seggio maggiore di Barcellona e delle altre città è invece presidiato davvero da centinaia e centinaia di persone che stanno cercando di tenere le urne con i voti. Voti che dovranno essere contati, anche qui è tutto sotto sequestro, quindi veramente tutto da capire. 460 i feriti, stando alle autorità catalane. Madrid non si sbilancia, aveva parlato di 38, poi non ha più dato numeri. La vice del premier spagnolo è intervenuta dicendo che c'è stata una proporzionalità di intervento, quindi è una giornata davvero ancora tutta da capire. E insomma, una giornata che vi stiamo raccontando alle 21, lo speciale di Radio 24. Filippo Maria Ricci, ti faccio sentire uno dei protagonisti sportivi di questa domenica, Piqué, che è andato a votare prima di Barcellona alla Spalmas, che si è giocato, ma adesso ci racconterai come. Piqué. Es una vergüenza, como dice Xavi. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Ya te digo, hoy quiero que pase el día, analizarlo, pero bueno, creo que a partir de mañana se van a tomar las decisiones oportunas, porque... Allora, quello che sentite è Piqué al seggio, gli applausi degli elettori catalani indipendentisti. Poi il Barcellona ha giocato, Filippo, anche se a lungo la partita è stata in dubbio. Sì, ha giocato, ha vinto 3-0, due gol di Messi, quindi no, qua la vita prosegue tutto come uguale al solito. In questo, diciamo, come al solito, sì, però questa è una partita storica, una giornata che avrà delle conseguenze. Il Barcellona ha chiesto di rinviare la partita, la Liga e la Federazione hanno risposto di no. In caso di sospensione della gara, il Barcellona avrebbe perso la gara di oggi, quindi 3-0 a tavolino più 3 punti di penalizzazione. A quel punto il Barça ha deciso di fare questa scelta che è stata contestata da tutti, ovvero di giocare a porte chiuse. Il presidente Bartomeu è intervenuto in televisione dicendo che era, diciamo, la loro forma di mostrare il dissenso per quanto successo nella giornata. La cosa non ha convinto nessuno, perché ci sono andati di mezzo i tifosi, e quindi o si sceglieva di non giocare oppure era meglio farlo con i tifosi. Per cui per il Barcellona grossi problemi, si è dimesso un vicepresidente per protestare contro la decisione di giocare a calcio, però è chiaro che siamo arrivati al re dell'azione, e se non giocava perdeva 6 punti e quindi probabilmente la Liga, o comunque metteva in gioco la sua Liga. Ha scelto di giocare a porte chiuse, ancora più critiche. Sì, dobbiamo ricordare che il Camp Nou in tutti questi anni è stato spesso teatro delle manifestazioni indipendentiste catalane. E adesso parliamo di che cosa succede domani mattina, quando Piqué, che abbiamo sentito, e altri dovranno cominciare, come faceva notare ieri la prima pagina di Marca, a sudare per la maglia della Spagna. Sì, domani sera Piqué è atteso a Las Rosas, domani sera c'è un allenamento a porte aperte a Las Rosas, alle porte di Madrid, vediamo cosa succede. A me sembra un passo di non ritorno tutto questo, questa giornata, io lo dico da tempo, adesso vediamo quali saranno le conseguenze. Ma ti aspetti che intanto... Piqué, che è il giocatore più esposto, possa magari prendere una decisione clamorosa? No, non l'ha mai fatto nel corso della sua carriera. No, però bisogna vedere anche come sarà la reazione domani sera, dopodiché c'è una partita ad Alicante, bisogna vedere come reagisce il pubblico, cosa succede nelle prossime ore. Qui, come diceva prima anche Anna, è tutto da vedere, la situazione è in costante divenire, anche a livello sportivo, oltre che politico, per cui sai, il Barcellona, che ha sempre fatto, diciamo, della politica uno dei suoi standard, adesso improvvisamente dice, insomma, si allontana e fa un passo indietro e vediamo come va a finire. Perché il gesto di giocare a porta chiusa viene interpretato come una sorta di allontanamento dalla causa. Certo, sì, diciamo, si sposa la causa della Liga, quindi dei punti, i soldoni, e ci si allontana da quella che è la filosofia del Mexican Club. Però è chiaro che il Barcellona sarà sempre più chiamato a una scelta di questo tipo, e vediamo come reagisce. Oggi intanto si è dimesso il vicepresidente e le critiche a Bartomeu sono feroci. Due radio catalane non hanno smesso la partita, per dirti. Girava anche voce che in realtà fossero stati i giocatori, nel momento in cui pareva che la partita non si giocasse, a far presente a Bartomeu e quindi al club che loro intendevano scendere in campo. È chiaro, perché qui arriviamo a un altro punto importante. Cosa gli dice a Leo Messi? Che non si gioca più? Tra l'altro con un contratto non firmato, tra 90 giorni Messi è libero di negoziare con la squadra che vuole, perché questa è la realtà. Barcellona si è infilato in una strada che è piena di incognite, per cui sì, non ho dubbi nel pensare o nell'accettare il fatto che siano i giocatori a spingere per giocare, perché sono giocatori, ma diciamo loro la politica probabilmente gli interessa meno di zero, a parte forse Piqué, e quindi i giocatori hanno spinto per giocare e il Barcellona, pur di non perdere i punti, scelta, ti dico, legittima dal punto di vista calcistico, ha deciso di giocare. Però se poi tu hai fatto politica per degli anni, è chiaro che adesso ti ritrovi in una situazione molto complessa. Grazie Filippo. A voi, ciao. Stiamo ovviamente per aggiornarci su quello che succederà. Abbiamo un minuto prima del traffico, andiamo a San Siro da Dario Ricci, Milan-Roma. 41esimo di gioco, ancora 0-0 Giovanni, ma in questi ultimi minuti è il Milan a farsi avanti dalle parti di Alisson, come in questo istante la palla sul destro di Çalhanoğlu, che però cicca il pallone, termina nettamente sul fondo. Al 39esimo però il cross di Rodriguez, uno tra i più positivi tra i rossoneri, Alisson respinge anticipando anche il proprio stesso difensore Fazio, la palla però arriva sui piedi di Biglia, il sinistro del centrocampista argentino è alto sulla traversa. Un Milan che però in questo momento sta provando a pressare fin da subito, fin dalle fonti del gioco giallorosso, con buoni risultati perché quantomeno ha riconquistato metri di campo. 42esimo di gioco, però lo 0-0 ancora non si sblocca a San Siro. Grazie Dario, torniamo da te dopo il traffico, quando apriamo anche la pagina della Formula 1. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Clamoroso colpo di scena, avevamo detto dei problemi al motore della macchina di Kimi Raikkonen, la macchina portata nei box, partirà, se riuscirà a partire dalla pit lane Kimi Raikkonen, quindi è veramente la luna nera, momento storto, non gira nulla per il verso giusto per la Ferrari. È successo anche questo oggi in Malesia, ieri Vettel che non riesce a fare neanche un giro nelle prove, parte ultimo Kimi Raikkonen che deve partire dalla prima fila e non parte, più o meno per lo stesso problema. Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport, che saluto, ciao direttore. Ciao, buona serata a tutti. Adesso dovrai rispondere alla domanda delle domande, cioè se si tratti di sfiga o se si tratti semplicemente di una macchina che ha fatto di tutto e è arrivata al limite per cercare di superare la Mercedes, e quando vai al limite poi paghi. Prima però vi voglio far sentire un'altra cosa che è curiosa, che è successa oggi, curiosa, insomma, dipende dai punti di vista, ovvero Vettel, Alonso, Ferrari, McLaren, chissà se senza quel doppiaggio negato in prima battuta da Alonso a Vettel potesse arrivare o no il podio. Allora, il team radio di Vettel contro Alonso. Hey, what a... Come on, Alonso. Really? I thought you were better than that. Poi Vettel ha detto, lo sappiamo che Alonso ce l'ha con la Ferrari, ha fatto apposta sostanzialmente, ha fatto capire la risposta di Alonso a Vettel. No, non pensi di aver chiuso un po' troppo la porta in quel doppiaggio con Sebastian Vettel? Lui non era molto contento. Lui non è molto contento normalmente mai, quindi è più un problema di lui che mio, penso. Questo perché Alonso ha significato qualcosa nella storia della Ferrari. Allora, direttore, partiamo da dove? Partiamo dalla sfortuna che sicuramente c'è, perché se ti prende due macchine una in fila all'altra c'è sicuramente, perché se all'inizio di una gara in un incidente vengono coinvolte le tue due macchine come l'ultima volta, un po' di sfiga c'è, però qui diciamo che il fatto che la Ferrari abbia dovuto cercare di tirare il collo, per così dire, alla sua vettura per reggere il passo, anzi per tornare davanti alla concorrenza, perché la Ferrari qui è obiettivamente davanti alla Mercedes sia in qualifica che in gara, perché se ci fosse stato Vettel la pole position sarebbe stata sua, e poi in gara avremmo visto un'altra gara, probabilmente ha rischiato qualcosina in più del dovuto, e alla fine hanno ceduto tutte e due le macchine praticamente nello stesso modo, il che forse è una buona notizia. Adesso io vado per paradosso, ma l'idea che la Ferrari abbia provato e magari proverà ancora nelle ultime 5 gare davvero a far di tutto per vincere il mondiale, questo può essere accolta come una buona notizia. È qualcosa che l'anno scorso non ci sarebbe immaginato, una Ferrari che potesse arrivare nelle ultime 5 gare del campionato ancora in corsa e con la possibilità di spingere qualcosa per cercare di vincere questo mondiale, vuol dire che il risultato, l'obiettivo è stato raggiunto. L'obiettivo della Ferrari di quest'anno, non dimentichiamo, non era di vincere il mondiale, era di tornare competitiva, e lo è tornata competitiva, e anche al di là di quello che pensavamo. Certo, poi quando arrivi lì incominci a sentire il profumo della vittoria finale straordinario e ti sfugge per un incidente che un po' è colpa tua, un po' è colpa di qualcun altro, per un particolare del compressore che ti si rompe e non ti manda aria al turbo in qualifica, e poi la macchina dell'altro che avrebbe potuto andare a cercare di vincere la gara, cioè di Kimi, che ha lo stesso identico guasto sulla griglia. In più ci aggiungi l'incidente post gara, quando tutto era finito, quella incomprensione clamorosa tra Stroll e Vettel, che potrebbe compromettere il futuro di Vettel, perché adesso bisognerà aprire la macchina e vedere se è compromesso il cambio di Vettel oppure no, e se fosse compromesso la Ferrari dovrebbe andare a cambiare e a sostituire il cambio, e con il rischio di penalizzazione nella prossima gara in Giappone. Quella un po' di distrazione da parte di tutte e due, ma molta molta sfortuna, insomma. Ha ragione. Beh, intanto ti chiedo se il mondiale è finito o no. Aspettiamo il Giappone, il mondiale, cioè sono tanti punti, sono 34, sono veramente tanti. Cioè, sono 125 è vero, in palio. È vero che la Mercedes sembra in questo momento un pochettino inferiore alla Ferrari, però Hamilton sta arrivando al momento in cui può amministrare la situazione, e la prossima pista è un po' più favorevole, sulla carta è un po' più favorevole alla McLaren, anche se, alla Mercedes, anche se abbiamo visto che molto spesso si sono ribaltati poi i pronostici in queste ultime due gare. Restava la domanda su Alonso. Chi ha secondo me Alonso non due? Ha fatto una scorrettezza, no. Perché ha lasciato passare una curva Ricciardo, e la curva dopo ha fatto passare Seb, ha fatto una condotta di gara senza diventare uno zerbino, poi che insomma lui magari un favore in più alla Ferrari non lo faccia, questo fa parte del gioco, non è stata una condotta di gara scandalosa, credo. No, però si è vista un po' di malignità, si è intuito in fretta che non l'avrebbe comunque fatto passare. Comunque stai confermando a pensare male ogni tanto si azzecca, perché su questo lui è molto bravo, anche la risposta che ha dato a Vettel, da grande polemista. Sì, assolutamente. Se mi dai un voto ad Hamilton e alla Mercedes? Pensavo meglio, ti devo dirti, in questo weekend, meglio, però sì. Alla fine sono riusciti a ottenere massimo risultato, perché hanno aumentato il vantaggio sulla Ferrari. Sono due gran premi in cui potevano prendere il cappotto, invece sono usciti con tanti punti più della Ferrari, quindi alla fine il risultato ha dato ragione a Hamilton, che non ha fatto una grande qualifica, perché la pole position è merito suo più che della macchina. Poi in gara non ha risposto più di tanto all'attacco di Verstappen, e alla fine ha pensato, visto che Vettel era molto molto lontano, a portarsi a casa i 18 punti del secondo posto e quindi pensare al campionato. Sì, ha fatto ragioniere, ma aveva assolutamente ragione. Grazie direttore. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Abbiamo due minuti allora per il commento con Dario Ricci del primo tempo di Milan-Roma, 0-0. Dario, mi pare un Milan non disprezzabile, meglio di quello visto nelle ultime settimane. Sì, un Milan quantomeno più accorto, e ha soprattutto nella parte finale di questo primo tempo Giovanni, che ha saputo ribattere a una Roma che piano piano, lentamente, aveva conquistato un certo predominio territoriale senza creare grandissimi pericoli dalle parti di Donnarumma, se non per causa dello stesso portiere rossonero che al 17° sbaglia un rinvio proprio sui piedi di Strootman, che conclude con un destro piatto al volo fuori di poco. Strootman, che poi alla mezz'ora è stato sostituito per infortunio da Pellegrini, al 42esimo proprio lo stesso Pellegrini, bravo in slalom ad incurinarsi in area, questa volta attento Donnarumma a bloccarne il diagonale. Nel frattempo però il Milan, come dicevamo, era cresciuto, trascinato soprattutto dalle prove dei due esterni, direi. Borini molto attento in questo doppio ruolo di attaccante ma anche di difensore sulla fascia destra del 3-5-2, dall'altra parte ancora più efficace Rodriguez, suo il cross al 39esimo respinto da Allison, palla che arrivava poi a Biglia che di sinistro calciava alto sulla traversa, alto sempre sulla traversa, poi al 45esimo il destro di Kessi che già nei minuti precedenti ci aveva provato senza troppa fortuna dalla lunga distanza. Comunque insomma un Milan complessivamente più che sufficiente, Roma che ha provato a fare la partita, c'è un secondo tempo, questa è ancora una partita assolutamente aperta a qualsiasi risultato. Grazie a Dario che andrà avanti a raccontare Milan-Roma anche nel corso degli appuntamenti informativi di Radio 24 a partire dal GR delle 19. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleone e Valeria Bernardi che si sono alternati in regia. Tutti Convocati Weekend torna con me domenica a partire dalle 17, mentre domani dopo il GR delle 14 ritrovate Carlo Genta e Luigi Pardo. Ciao a tutti! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte! Saluti!